A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Beh, non capita tutti i giorni di sentire squillare il cellulare e dall'altro capo trovare un luminare dello sport italiano che ti propone di intervenire in trasmissione. A me è successo e sono dunque lieto di ripresentarvi il professor Carlo Vittori. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e grazie ancora. Io sono molto felice di risentirla, al punto che mi piacerebbe cederle, sia pure dopo un brevissimo accordo di massima che abbiamo preso in mattinata, che mi piacerebbe cedere a lei la scelta dell'argomento. Sì, mi sentivo nei vostri confronti, anche nei confronti di chi mi ha ascoltato la prima volta che sono intervenuto, di essere deficitario di una parte che riguarda il calcio italiano, che credo sia la base della formazione dell'apice di una piramide che di alta qualificazione, che non può fare a meno di questo presupposto di grande stabilità. Sì. Che io considero essere l'attività giovanile. Il calcio giovanile come base di un movimento? Beh, credo di sì, altrimenti non si spiegherebbe perché questa moltitudine di giovani impegnati con squadre più o meno qualificate, credo che sia un numero intorno alle 800.000 unità giovanili, dicevo a tutti i livelli, cioè professionisti, semiprofessionistico e dilettantistico. Certo. Non si capirebbe perché questo grande numero, per portare poi a scalcio che si gioca in Italia quello che io definisco il vero calcio italiano, cioè fatto da giovani che vivono in Italia e che sono allenati da allenatori italiani. Il calcio fatto in casa. Settori giovanili. Certo, il calcio fatto in casa. Guardi, io intanto le faccio un'ipotesi sul settore giovanile. Lei sa che c'è quell'antico proverbio che dice: via il gatto, i topi saltano o i topi ballano. Via, in questo caso il settore giovanile è il gatto presidente che balla, che è Rivera, no? E quindi può darsi che qualcuno degli impiegati abbia preso esempio, ma questa è una battutaccia su quello che comunque qualsiasi cosa combini a ballare in televisione rimane il mio idolo d'un tempo. Ma forse se lo meritano. Parlavamo di un numero verosimile di 800.000 piuttosto che di 1 milione di ragazzini inseriti in settori giovanili di vario... Di vario livello, di vario valore, di varia credibilità. E lei ci sta dicendo che non riesce, se ho capito bene, non si spiega come da una massa così sterminata escano così pochi giocatori. Poi i motivi sono diversi. Io non voglio essere tanto presuntuoso da pensare avere scelto quelli veri, però mi sembra di poter dire che ci sono delle cose che sono, secondo me, dal punto di vista dell'obiettivo da raggiungere, sono contraddittori quantomeno. I giovani, soprattutto giovani degli esordienti 11-12, massimo 13 anni, devono imparare a giocare a calcio, ma per far questo ci vogliono docenti, maestri che conoscono i problemi dell'apprendimento motorio e di una disciplina soprattutto a geometria variabile come è quella del calcio. Sì. E soprattutto quanto è necessario per gestire questo mezzo così bizzarro che è il pallone, cioè grande abilità e maestria a far fare al pallone quello che il giovane vuole. Questo è una cosa molto, ma molto difficile, che stando a quanto si fa nei settori giovanili, per quello che io ho potuto vedere nei 3 anni che ho vissuto nella Fiorentina, questo non si fa come dovrebbe essere fatto e per l'importanza che ha. Perché tutto questo? Perché a fronte delle esigenze degli allenatori c'è uno spauracchio grandissimo che è il campionato, soprattutto delle squadre professionistiche, cioè i campionati italiani allievi professionisti, i campionati italiani della primavera e naturalmente un allenatore che considera come qualsiasi altro giocatore della sua squadra questo momento, un momento di lancio, sì. Vuole ben comparire e allora sin dalle prime battute non si occuperà mai di vedere se l'apprendimento delle abilità necessarie a governare il pallone sono sufficienti per apprendere la tecnica individuale o la tattica, che è poi quella che si fa soprattutto per mettere a posto e amalgamare 11 o 15 o 16 elementi che, con i quali si vuol vincere un campionato. In poche parole, c'è un obiettivo troppo grande che fa perdere di vista tutto il contorno di apprendimento pedagogico delle maestrie con il pallone nell'età giovanili. Tutto questo non si ha tempo di farlo perché il tempo è sempre troppo poco. Siamo arrivati a un primo bersaglio grosso che lei ha colpito, e cioè la filosofia del risultato ad ogni costo anche nell'attività giovanile. Questa è un'esperienza che lei ha fatto, ci ha detto, anche ai tempi della Fiorentina. Qualche anno è passato da allora e io ho la sensazione che se questo è quanto aveva ricavato lei in tutto in parte allora, è difficile che le cose siano migliorate in questi anni. È possibile che si siano invece estremizzate ulteriormente. Primo breve intervallo per sentire gli aggiornamenti del traffico e poi torniamo a collegarci con Ascoli Piceno con il professor Vittori. Strade in diretta. Ci sono code di 4 km sul raccordo Sistiana-Trieste dopo l'incidente tra l'area di servizio Sistiana e Prosecco in direzione di Trieste. Ci spostiamo nella zona di Roma, il traffico è bloccato sulla via Appia tra Terracina e Velletri in entrambe le direzioni per un incidente avvenuto tra Borgo Faiti e il bivio per la Pontina. Un incidente anche sulla 4 Brescia-Padova, si rallenta tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Padova. Per traffico intenso, code in uscita dalla capitale sul tratto romano della 24 tra Portonaccio e via Togliatti e alle porte di Genova sulla 10 Genova Ventimiglia tra Pegli e Genova Aeroporto. In Sicilia si viaggia con difficoltà per la protesta degli autotrasportatori che prosegue in tutta l'isola, blocchi all'ingresso dei principali porti e agli svincoli autostradali nel Catanese, Adenna, Trapani, Palermo. Bloccata la statale 640 di Porto Empedocle in provincia di Caltanissetta. Numerosi camionisti fermi anche in Calabria agli imbarchi di Villa San Giovanni. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. A tempo di sport. Ci sta dicendo il professor Vittori che non riesce a capire quali siano i veri obiettivi delle società che crescono, si allevano in casa un gran numero di giovani talenti calcistici e poi li lasciano andare e a loro preferiscono invece dei prodotti di importazione. Io credo che tra i valori aggiunti possibili del costruirsi giocatori in casa, non so, mi viene in mente, di recente ho parlato con Ottavio Bianchi che fu il primo allenatore a vincere uno scudetto a Napoli e che poi ha avuto grandi risultati anche altrove, non dappertutto ma spesso, e lui mi diceva per esempio a proposito di quell'avventura napoletana del grande valore aggiunto che gli diedero, magari erano soltanto dei rincalzi, però la dedizione che avevano i giocatori cresciuti nel vivaio di quel Napoli rispetto a quelli che invece, pur essendo grandi professionisti, venivano da fuori. E questo credo che sia uno dei dei significati che potrebbe avere come valore aggiunto l'essere cresciuto in un vivaio come lei sostiene. Perfettamente, è questa spinta, questa forte spinta emozionale che il giovane del luogo o il giovane venuto fuori da quel luogo, cioè da quel club, no? Ha, perché non vede l'ora di arrivare a dimostrare le sue capacità. È questo quello di cui ha bisogno il calcio, l'amore e la passione con i quali i giovani si applicano. Ed è chiaro che se si fa scuola, si fa ambiente, l'ambiente forma e l'ambiente stimola, eccita. È questo quello che ci vuole per tirar fuori grandi prestazioni. Non si possono addormentare nella routine, questa è una cosa abominevole per uno che vuol dare grandi prestazioni di se stesso. Lei dice bisogna che questi ragazzi crescano senza il bisogno agonistico ad ogni costo, senza la filosofia del risultato ad ogni costo. Parliamo di settori giovanili e su questo mi pare che tutti si sia più o meno d'accordo. Però io mi metto nei panni di una società, questi ragazzi, questi bambini sono cresciuti, sono diventati adolescenti, sono diventati ragazzi e cominciano ad essere in un'età in cui c'è bisogno di una valutazione concreta sul loro conto in prospettiva. A che punto si può cominciare a capire che cosa possono dare anche in termini di risultati, senza snaturarli e continuando a farli crescere? L'età è chiaramente difficile da definire, ma dobbiamo purtroppo definirla perché i giovani sono legati all'età dei settori. Sì. Non so se mi spiego, 16-17, io posso avere un ragazzo di 17 anni che per qualificarsi di più potrebbe salire nelle fasce della primavera, cioè sì, dei 19, ben dei 18-19, con i quali possono giocare, non so più se uno o due ventenni. Fuori quota, sì. Fuori quota. Sì. Ci sono queste esigenze. Io direi che fino a 16 o 17 anni, ma sarebbe già troppo, che i giovani debbano imparare con il pallone. Con il pallone. In squadra, con i giochetti che sanno fare loro, ma debbono stare lì ore ed ore. Quindi è chiaro che... A sviluppare la destrezza, quindi, no? A coltivare la destrezza. Sì, devono coltivare la destrezza, ma devono gli allenatori essere preparati a fare questo. Certo. Dovrebbero conoscere i problemi della pedagogia dell'apprendimento. Le età sensibili non sono i 19enni o i 20enni. Le età sensibili sono 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, a 18 e 19 si impara poco. Si impara meno, le basi si buttano prima e allora la prima cosa da fare è da scegliere quali devono essere i contenuti dei corsi per gli allenatori di attività giovanile. Sì. Non c'è niente da fare, debbono rifare tutto un programma. Questo la federazione non lo fa perché non ha gli uomini per fare questo. Mi dispiace. No, certo, ma e da che cosa dipende, evidentemente? Evidentemente non ci saranno abbastanza risorse, cioè questi gli allenatori più bravi, gli istruttori più bravi vanno a cercare qualcosa di più remunerativo, temo, che non l'allevamento, l'allevamento dei giovani. L'abilità di fare carriera e andare oltre, lo faccio stare lì perché è lì che lui rende il meglio di se stesso, solo perché lo pago per quello che dà. Certo. E questo è chiaro. Non so, io ho una reminiscenza molto lontana di un settore giovanile di Torino, che forse lei ricorda, con un allenatore, un pedagogo bravissimo di cui non ricordo il nome. Potevano essere due soli, o Ercole Rabitti o Sergio Vatta. Ah, Vatta, sì. Va. Marta, ecco, sì. Beh, ma mi fa i trabocchetti, ma io sa, cerco no, di reggere botta. Non me lo ricordavo. Marta, sì. Ecco, ci vogliono dei pedagoghi, cioè degli allenatori a cui piace fare questo. Stare nel settore giovanile e tirare fuori i talenti, certo, questa è la cosa più importante. Sì, deve essere un po' anche, lo so che è retorico dirlo, ma deve essere un po' anche una vocazione, non soltanto interpretata come un mestiere, no? Sapendo in partenza che certamente i grandi guadagni sono altrove, le soddisfazioni magari invece possono essere proprio lì. Ma vede, i grandi guadagni poi non so che cosa ci faranno tutti questi soldi. Uno che crea campioni dal settore giovanile deve essere pagato, e pagato bene per quello che rende. Sì. Può fare anche dei contratti a rendimento, eh? Sì. No, scusi, ma se voi mi date dei ragazzini, io vi do 10 uomini che vendete a 10 milioni di euro, a me mi date la percentuale dell'1% o del 2%. Senta, visto che lei ha parlato di rischi e ha parlato anche di problemi ambientali, io chiuderei con una riflessione sui genitori di tutti questi. Di questi ragazzi, di questi che lei chiama giovani. Io ho conosciuto un bravissimo istruttore giovanile che, insomma, dopo un po' di anni di queste esperienze era sinceramente un po', come dire, usurato dal rapporto con i genitori. Sto parlando di tempi moderni, e ad un certo punto si arrese e disse: io tornerò ad allenare i ragazzi quando mi daranno una squadra di orfani. Lei lo capisce, cioè sì. È in sintonia con questa battutaccia estrema. Assolutamente. Io ho rincontrato proprio pochi giorni fa che mi ha fatto scattare questa decisione di telefonarle, di un allenatore che era un bravo allenatore giovanile a Firenze, perché riuscì a portare gli allievi professionisti ai campionati italiani e vincerli sul Napoli, e poi la primavera l'anno dopo vincere il trofeo, il torneo Viareggio. Certo, come no, più Viareggio. Sì. Un bravo allenatore che mi ha ritelefonato e mi ha detto: professore, io sono andato via dalle squadre, allenato anche il Grosseto, non so in quale serie B credo, e sono ritornato al settore giovanile perché stavo perdendo la passione a fare questa professione. ci sono esperienze negative che si fanno ogni tanto. Professor Vittori, io non posso che ringraziarla di questo la ringrazio io. Sì, e lei a ringraziare? Sì, bene. Molto, moltissimo, sì. Fantastico. Spero di non aver traboccato il vaso, dico. No, ma professore, ma sta scherzando. È stato un grande piacere poterla riospitare e avere questa sua lezione così dotta e così articolata. Una mail ricevuta in queste ore, che ho trovato particolarmente significativa, fa il paio, mi pare, con l'intervento da un certo punto di vista del professor Vittori. È troppo dispiacere e rabbia per quanto avvenuto all'Isola del Giglio per partecipare ai commenti calcistici. Questo è un ascoltatore molto fedele che si chiama Agostino Ghiglione, scrive da Roma. Se il comandante si comporta come un diportista della domenica d'agosto e la sua compagnia fa finta di non sapere il vizio dell'inchino e la guardia costiera, sai, non interviene con dispacci ufficiali, come possiamo accettare tutto ciò? Lo dico con indignazione, ripeto, firmata da un ascoltatore, perché dal 94 al 2002 sono stato responsabile di terminal portuale a Savona e ho vissuto, partecipando alle riunioni dell'autorità portuale, alla nascita del nuovo polo per le crociere spostato da Genova a Savona. Un progetto magnifico su cui sono stati spesi soldi ed è stato dato lavoro a tanti. Penso inoltre allo stato d'animo di chi a Sestri Ponente lavora lì tal cantieri e dopo aver costruito quella meraviglia si vede costretta non solo a vedere ridimensionato il suo lavoro, ma ad assistere all'uccisione della sua creatura. Hanno distrutto un mondo di imprenditoria e di lavoro. Alla domenica qualcuno vorrebbe seguire il calcio per antica abitudine, ma anche per liberare la mente da tante miserie. Ma anche lì si annidano personaggi troppo abituati agli inchini. Grazie di questa lettera, ripeto, scritta da un da un ascoltatore fedelissimo, con uno spunto sollevato da un ascoltatore blogger che ha scritto quanto segue, riferito al nuovo Juventus Stadium, ma che secondo me si applica anche ad altri stadi. E cioè, scrive questo ascoltatore, si è detto che grazie al nuovo stadio l'apporto del pubblico è molto maggiore rispetto a prima, il contributo, l'entusiasmo, ma mi è venuto da pensare, vedendo la partita di domenica, anche all'opzione contraria, cioè che se un giocatore sbaglia e entra nel mirino del pubblico, tipo nel caso di questa partita Bonucci e poi Krasic, dopo rischia di non riuscire più di non farcela più a giocare proprio per questa vicinanza del pubblico. Allora questo mi ha fatto venire in mente un paio di cose. La prima è che recentemente Sport Week, cioè il magazine della Gazzetta dello Sport, aveva pubblicato una tabella molto curiosa e molto interessante della distanza ufficiale in metri minima e massima in tutti gli stadi di Serie A. Allora, per esempio, a Torino, visto che parliamo dello Juventus Stadium, il posto più vicino al campo è a 7,5 metri dal campo stesso, ma proprio dal campo di gioco, non quello che Sandro Ciotti chiamava il campo per destinazione. A Bergamo, per esempio, è di 4 metri soli, 8 metri a Parma, 7 metri a Novara, 8,3 a Genova, 3 metri al Meazza, mi sembra pochi 3 metri, però vediamo. E invece dall'Olimpico a Udine, a Napoli, eccetera, le distanze sono doppie, triple, eccetera. E a quel punto, anche con l'aiuto di Franco Piantanida, qual era l'idea? Di cercare un giocatore che abbia fatto esperienze in tutti e due i generi di stadi e di campo, e possibilmente un portiere, perché un portiere ha evidentemente più tempo per ascoltare anche le voci del pubblico. Ne chiedo conferma a Giovanni Galli. Buongiorno Giovanni. Sì, buongiorno Gigi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, ripercorrendo la tua carriera, tanti anni a Milano, una breve esperienza a Parma, e parliamo di campi piccoli, lunghe esperienze a Firenze e Napoli, e parliamo di campi grandi, e anche a Torino, al delle Alpi, per una stagione. Davvero ha senso quello che questo ascoltatore ha scritto? Ma sai, io devo dirti che ho avuto una carriera un po' particolare, nel senso che sono cresciuto a Firenze e mi sono ritrovato praticamente dal settore giovanile all'Artemio Franchi, senza neanche accorgersene. Senza rendertene conto, bello. Senza rendermene conto. Per cui quando sono entrato in quello stadio è diventato casa mia. Perciò sono cresciuto anche qualche volta litigando, no, con i tifosi. Ah, sì, ma era sì, litigando proprio dal campo, ma era proprio una questione di cioè come quando sei in famiglia, no? Sì. Il genitore che fa delle note al figlio, il figlio che normalmente risponde. Ecco, era un po' così, perché effettivamente a Firenze dalla tribuna al campo basta uno starnuto, effettivamente lo senti. Perciò io sono cresciuto con questa pressione, se così, ma per me era una cosa normale. E difatti, quando io dico che chi ha vissuto lo stadio di Firenze può girare qualsiasi stadio del mondo, credo di non dire un'eresia, perché c'è sempre questo continuo, no, dialogo fra la tifoseria e il giocatore che è in campo. Perciò, ecco, quello che ha detto l'ascoltatore che vi ha mandato questa mail, effettivamente penso che possa essere sì un aspetto positivo, ma anche un aspetto negativo per chi non è abituato. Certo, ecco. Perché il professionista è chiaro che insomma, non può fare i conti, no? con l'insulto, col coreto, queste cose, oppure lo patirà all'inizio, ma poi riesce a farsi la pelle, la corazza, insomma, evidentemente. Però un conto è, non so come dire, non offendersi, un conto è risentirne dal punto di vista del rendimento. Beh, credo che il sentirle uno in campo le sente. Sì, sente addirittura il brusio quando sbaglia un passaggio, sbaglia un intervento, sbagli qualsiasi cosa che possa creare, no, allarme nei tifosi, lo senti, non c'è niente da dire. E questo forse è la cosa più destabilizzante. Io ricordo, soprattutto in campi come San Siro e soprattutto in stagioni in cui sono abituati bene, arriva il debuttante, il ragazzino, ti sbaglia il primo pallone, soprattutto se è un difensore, al secondo si sente quella sospensione di fiato quasi del pubblico. Sì, sì, sì, ma in effetti è così, in effetti quando cioè, al giovanotto viene concesso, cioè il primo l'esordiente gli viene concesso qualcosa perché logicamente uno cerca di capire e di valutare qual è lo stato d'animo di un giovanotto che si trova a San Siro, ma sono talmente abituati bene a vedere palloni d'oro fuori classe certo. Che la pazienza è limitata, cioè, sì. Effettivamente il terzo passaggio c'è già il fischio, però devo dirti che io caratterialmente mi ci ritrovavo perché avevo comunque sempre bisogno di avere un avversario, sì. No? Cioè, credo che sia stata forse anche la mia forza in quello che è stata la mia carriera, cioè nel fatto di misurarmi con me stesso, misurarmi con l'avversario, misurarmi anche con il pubblico nei momenti. Ecco, perché devi sempre non avere davanti un obiettivo, quello di non farti segnare con l'avversario e quella di convincere i tifosi dall'altra. C'è dubbio, non c'è dubbio. E poi l'hai detto all'inizio, un pisano cresciuto. Cresciuto a Firenze, dove c'è il gusto della polemica, credo più alto al mondo, no? Ma il gusto nel senso buono, nel senso proprio viscerale, direi, no? Abitudinario, è incorporato nel fiorentino, sì. E quindi è chiaro che dopo. Decisamente sì, a tal punto che qualche volta, in tante occasioni, perché non è che siamo stati ai vertici del nostro calcio da sempre, ma per qualche occasione è successo, e se vincevamo una partita 3-0 magari c'era qualcuno che storceva il naso perché potevamo vincere 4-0, certo. Ecco, questo certo. era un po' l'ambiente che ho sempre vissuto su Firenze. Questa è una cosa abbastanza tipica del tifoso in generale, ma insomma il tifoso fiorentino in particolare. Senti, a questo proposito, insomma, se c'è un momento in cui il pubblico fiorentino forse qualche diritto, diciamo pure, di essere perplesso o polemico, in questa fase ce l'ha. Purtroppo sì. Purtroppo c'è stata un'involuzione affettiva, sì. Ma non nei confronti della maglia, ma credo in tutto quello che oggi è la Fiorentina, nel senso sentono la famiglia della Valle distante, sì. vorrebbero che perlomeno uno di loro, oppure qualcuno che facesse le veci, che vivesse la realtà fiorentina 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana. Invece il presidente Andrea Della Valle vive giustamente le sue attività, il presidente adesso è Cognini, che vive comunque a Casette d'Ese, è logico che questo crea un po' di scollamento. Poi non vengono i risultati e questo il fiorentino è sempre pronto al confronto con le grandi potenze, anche con l'abilità, con l'astuzia, con quello che logicamente chi è più debole potenzialmente nei confronti dei grandi vorrebbe avere delle rivincite. Ecco, così essere spuntati, non avere armi per poter combattere in mezzo al campo, ecco, credo che questo abbia creato sicuramente a Firenze una situazione dove, se pensi che domenica, Gigi, te hai vissuto la realtà di Firenze per tanti anni, sì, ecco, domenica c'erano soltanto 11.000 persone allo stadio. Questo non è certamente un buon segno. D'altra parte, Giovanni, io lo dico da fuori. Sono da una parte ammirato per la gestione che attualmente la società sta avendo in questa ottica. La Fiorentina forse è l'unica squadra in questo momento che pensa razionalmente e giustamente da un punto di vista finanziario prima a vendere e poi a comprare, no? Per non far la fine di ritrovarsi in casa chissà quanti che dopo non smaltisci più. Però è anche vero che questo per il tifoso è duretta da accettare. Sì, in questa situazione come quella di oggi, anche perché si è passati ad acquisti come giocatori Gilardino, Frey, tanto per dire, per dire qualche nome, da Toni, ai giocatori che in effetti non hanno dato quelle che erano le aspettative da questi giocatori stessi. Purtroppo la situazione oggi è deficitaria sotto tutti i punti di vista, e credo che la contestazione da parte dei tifosi può essere comprensibile. Ecco, domenica si è sfiorato anche forse troppo, perché sì, ci sono state degli sputi, ci sono state delle offese, e quelle secondo me bisognerebbe, ecco, stare un attimino attenti, perché credo che la famiglia della Valle abbia fatto molto e ancora molto possa fare. Manca, a mio avviso, se devo dirti, manca quella scintilla che si chiama entusiasmo, da una parte e dall'altra. E dall'altra. Ed è difficile da far scoccare, no? Perché è una situazione che, insomma, dà l'impressione, vista appunto da così lontano, di essersi un tantino incancrenita. Mi resta una domanda per Giovanni Galli, inevitabile per un portiere che abbia indossato anche la maglia azzurra. Giovanni, io avrei ancora una piccola curiosità con te, e poi ti lascio ai tuoi impegni, che sono tanti. Anche nella Fiorentina gioca titolare un portiere straniero. Quest'anno per la prima volta c'è stata una maggioranza, non assoluta, ma una maggioranza relativa comunque, di stranieri in porta per parecchie giornate rispetto a quelli di casa nostra. Beh, insomma, uno che è stato un grande portiere come te, che ha giocato in grandi squadre, che ha indossato a lungo la maglia azzurra, io penso che un pizzico d'amarezza, no? Da questo punto di vista ce lo possa anche avere. Ce l'ho. Perché credo che ogni qualvolta viene data fiducia a un portiere italiano, arriva come minimo alle soglie della nazionale. E allora mi domando perché le società non hanno la forza di sostenere, no, certe scelte. Sì. Perché noi eravamo, la mia generazione è stata fortunata, la mia, quegli anni lì, se ti ricordi, Malgioglio, Zinetti, Tacconi, Zenga, no? Eravamo tutti 57-58 e giocavamo tutti titolari. Sì. E allora qual era la forza? La forza di una società, di una scelta che andava supportata nei momenti difficili, perché il portiere giovane deve sbagliare, e se no non cresci mai. Certo. E allora, se cresci sbagliando nella fiducia della società e dei tifosi, io credo che nel giro di un anno o due hai un portiere forte e affermato. Se ogni qualvolta commette un errore lo risbatti in panchina, è logico che la crescita viene sempre frenata. Certo. Noi viviamo di esterofilia, dai, diciamocela chiara, sì, cioè, certo. Quello che diviene da fuori è sempre il migliore di quello che è in casa. Se pensi che alla Fiorentina c'è il primo portiere, il secondo portiere, adesso hanno dato via Avramov e Frey, poi abbiamo in primavera un ragazzo, mi sembra finlandese o lituano, e poi Miranda, che è un brasiliano. Cioè, sei portieri, tutti e sei stranieri. Vuoi dire che tra città e contado non ce ne sia uno fiorentino che potrebbe? È il più bravo, perché c'è Lazzarini, che è un ragazzo del 93-94, giovanissimo, che è il più bravo di tutti. E allora io dico a questi ragazzi che oggi sono in Serie A, sono in Serie B, cioè a Livorno, a Brescia, ci sono dei ragazzi, a Vicenza, ci sono dei ragazzi giovani. Beh, diamogli il tempo anche a loro di sbagliare, perché soltanto sbagliando si rendono conto come possono fare per rincorrere un sogno che è quello della Serie A, però bisogna sostenerli. Fantastico, lasciateli sbagliare. Questo è un messaggio di un grande portiere che chissà quanti ragazzini che il portiere lo fanno oggi e che sogna di diventare campioni avranno ascoltato e di cui devono fare tesoro. Nel frattempo ci siamo segnati questo nome, Giovanni, Lazzarini, lo teniamo d'occhio. Tienilo d'occhio, perché è un ragazzo veramente valido. Molto bene, ti ringrazio davvero di cuore. Non per rubare il mestiere a Nicola Filippone, che lo conosce a menadito, ma domani è un giorno in cui, essendo venerdì, c'è spazio per la rubrica di basket e quindi non sono in onda. Un ascoltatore, domani è l'anniversario della morte di Garrincha, poi il prossimo anno sarà cifra tonda, ma insomma sono comunque 29 anni che è morto Mané Garrincha. Un ascoltatore ha mandato un regalo di inizio anno, era mercoledì 4 gennaio, scrivendo la seguente mail e allegando un gioiellino. Allora la mail dice: per una volta e per scordarci di ruffiani e scommettitori che popolano il mondo pedatorio, vorrei che lei facesse un viaggio a ritroso. Credo che, se la mia memoria non è fallace, il mondiale cileno del 62 sia stato anche il mondiale di Garrincha. Beh, caro Andrea Bettini, la correggo, perché i mondiali di Garrincha sono stati due, sono stati quello del 58 in Svezia e poi quello del 62 in Cile, certamente. Continua Andrea Bettini dicendo: ho scoperto un brano musicale straordinario interpretato dal grandissimo Alfredo Zitarrosa, dedicato alla grande e sfortunata ala brasiliana. Le allego il testo in spagnolo, che lei certamente potrà tradurre facilmente. Il brano si chiama Milonga para Garrincha e vorrei che gli ascoltatori potessero conoscere questa straordinaria poesia. Dimentichiamoci per un attimo del bellicismo linguistico in voga nel calcio e nella TV in finta pelle e proviamo a rituffarci nella poesia. Beh, ho trovato delizioso questo spunto, così come adesso, giudicherete voi, è deliziosa questa Milonga para Garrincha, di cui ascoltiamo un frammento, un considerevole frammento. Lo lleva atado al pie come una luna atada al flanco de un jinete. Lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre y le pega tan suave, tan corto, tan bello. El balón es palomo de compa en el vuelo y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo y se estremece la gente y lo ovaciona la gente. Lo lleva unido al pie como un equilibrista unido va la muerte. Lo esconde, no se ve, le infunde magia y vida y luego lo devuelve. Y se escapa, lo engaña, lo deja, lo quiere. Y el balón le persigue, le cela, le hiere. Y se juntan y danzan y grita la gente. Y se abrazan y ruedan por entre las redes. Y se estremece la gente y lo ovaciona la gente. Beh, è un peccato dover sfumare, secondo me è un gioiello davvero come questo, non so, provo a tradurvi solo qualche frase. Tiene la palla vicino al piede come un equilibrista sta vicino alla morte, oppure colpisce la palla che sembra una colomba in volo e la tocca così dolcemente che la pulisce dal fango. Alla palla infonde la vita. Si potrebbe continuare per un bel po'. Io so questo, che quando da ESPN, magari a tarda sera o anche di prima notte, scopro filmati in cui c'è Garrincha, sono per l'appunto quasi sempre filmati dei mondiali del 58 e del 62, è impossibile che riesca a staccarmi prima che sia finito, perché vedendo giocare Garrincha, il Garrincha di allora, si capisce perché in Brasile non tutti siano poi convinti che Pelé sia stato il più grande brasiliano di sempre. Ho rubato il mestiere a Nicola Filippone, glielo restituisco evidentemente per il suo Sembra ieri di questo 19 gennaio. Sembra ieri. 19 gennaio 1958. La Juve di Charles, Sivori e Boniperti, già campione d'inverno, subisce una pesante e sorprendente sconfitta in casa della Roma. A spianare la strada ai giallorossi, un episodio singolare che accade dopo 3 minuti. Il difensore juventino Rino Ferrario, detto Mobilia, prende il pallone con le mani nella propria area, convinto di aver sentito un fischio che l'arbitro Campanati non aveva effettuato. Il rigore lo trasforma Griffith, quindi raddoppia lo Iodice. Boniperti accorcia le distanze, ma nella ripresa la Roma dilaga con Da Costa e di nuovo lo Iodice. Rino Ferrario, avete sentito? Rino Ferrario ha detto Mubilia. Mubilia in dialetto torinese perché? Perché era grande, era... Mubilia vuol dire mobile, e Ferrario era grande e grosso come un armadio a due ante. E poi forse oggi spiccherebbe di meno, perché oggi tutti i giocatori sono un po' più strutturati, anzi parecchio più strutturati di un tempo. Ferrario allora era Mubilia. È stata una puntata a soggetto. Io ringrazio Franco Piantanida che ha collaborato. Ringrazio tutti gli intervenuti, appuntamento a domani.